Cari amiche, cari amici, martedì sera, brussellando, siamo felici di ritrovarvi, ritrovare tutti coloro i quali hanno la bontà e la pazienza di ascoltarci tutti i martedì sera. Maridì ai microfoni, saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti e buon anno a tutti. E i nostri compagni di viaggio, Fiordaliso e Georges Laurent. Yuhu! Che devo dire? Come annunciava Dani M, buon anno a tutti, è la prima puntata del 2012, quindi cogliamo l'occasione per augurarvi davvero un buon anno e che possa realizzare quelli che sono i vostri desideri. E proprio perché è la prima puntata dell'anno e ormai consuetudine da qualche tempo, cercare di prevedere che cosa ci porterà quest'anno, e quindi è con noi e ritorna veramente con estremo piacere Massimo Max. Salve a tutti. Il quale non so quante volte dirà buon anno questa sera, però ci racconterà un po' quelle che possono essere le fortune, sfortune o quello che sarà dei 12 segni dell'oroscopo. Parliamo ovviamente del nostro oroscopo, non di quello cinese, quindi insomma parleremo dei segni dell'Ariete, dei Gemelli, del Toro e via dicendo. Così come avevamo fatto l'anno scorso, ne diciamo quattro alla volta, in maniera tale anche, come vuoi fare Massimo, in ordine oppure a seconda dei gradi di fortuna? Gli approcci poi possono essere iniziamo dal più sfortunato. No, andiamo diciamo in ordine astrologico. Allora, ma no, però non è astrologico, non mi piace. No, è più spiegato, dai. Allora aspetta, però io ho una curiosità, dici soltanto quale sarà il segno più fortunato? È in assoluto il Toro. Quindi è l'anno del Toro. È l'anno del Toro. Mi sento forte. Quindi è l'anno del Toro. Bene, e questo invece è l'anno mio, l'anno più sfigato invece. Quanto che l'hai pagato? Sfortunato. Imola, quanto l'hai pagato per dire che è l'anno del Toro? Beh, il segno più sfortunato è? Ma no, non si può dire. sì, no, si può dire. Quello che insomma, non diciamo che è sfortunato, quello che avrà un po' più difficoltà, insomma, un anno in transizione, ecco. Quello che sta vivendo vivrà un anno di transizione. E beh, chi non la vive la transizione, Giorgetto? E allora, infatti, dimmi chi è tanto il mio segno. Qual è il tuo segno? Lui non lo sa, no, quindi tu dillo, non io so il tuo segno. Secondo me è il mio. Dillo. Allora, ragazzi, prima di iniziare con tutti i nostri segni, pregherei Giorgio di non importunare Massimo, per piacere, Giorgetto. E vabbè, non importuniamo. Non importuna perché abbiamo 50 minuti precisi e Massimo ci deve raccontare di 12 segni. Abbiamo un brano che volevamo lanciare per la prima volta proprio in anteprima, possiamo dire, europea, Heavy Christmas, di una giovanissima band bolognese, God Bless Us and Everyone, e noi siamo veramente felici. Il brano è stato composto dai Bicolored Men, quindi noi salutiamo questi ragazzi bicolorati, gli auguriamo davvero tutto il meglio. Di sicuro non è il tipo di musica che noi siamo abituati ad ascoltare, però siamo sicuri che tra di voi all'ascolto ci sarà qualcuno che ama questo genere. Ascoltatelo proprio, Heavy Christmas. Southwards, like a fluting stream. free your hand. Never a word, never a dream. Only the wish of making profits. Your riches is the light of a masked life. Un brano veramente molto molto appropriato per questo inizio d'anno. Vi ricordo God Bless Us Everyone. Massimo, bene, iniziamo con l'Ariete allora, il primo segno. Beh, diciamo che pensieri fuori dalle regole, cioè parliamo di piccole trasgressioni che però non si sa mai dove conducono. Inevitabile qualche incidente di percorso, direi, nella prima parte dell'anno. Ma le occasioni migliori fioriranno ad aprile in poi, quando Giove e Venere saranno a favore. Quindi direi l'Ariete, buone occasioni sì, ma con pazienza. Quindi direi il consiglio è aspettare la seconda parte di questo incredibile 2012. Perché incredibile? Beh, arriviamo allora al segno del Toro. Aspetta, fermati, incredibile. Io c'ho una spada di Damocle sul cranio. C'era la mia spada, più sono due, anche quella di Damocle. Il 2012 Damocle non lo scomodiamo. Il 2012 finisce. E qua che si dice sulla fine del mondo qua? Ma quale fine del mondo, Giorgio? Ma Giorgio, veramente, con Giove in Toro, finalmente un bellissimo pianeta che sta nel domicilio del suo segno, quindi il Toro, finalmente la realizzazione di cose concrete e anche un po' di dindini, di soldi. Scusate, allora lei ovviamente essendo fortunato, beneficiario. No? Allora, siccome abbiamo un'interessata particolarmente interna, allora... Soldi. Allora, assolutamente, col vento in poppa andrete lontani. Quindi denaro, Giove nel segno, vi sentirete più liberi, capace di volare sganciandovi dalle zavorre inutili, con tanta voglia di essere più indipendenti. Quindi vi aspetta un anno straordinario, con aumenti di stipendio, cambiamenti di ruolo, addirittura di lavoro, se vorrete. Insomma, ognuno una troverà ciò vista, che cerca. Chissà. Ma che ne so, io ho sentito solo la parola indipendenza. Questa è la vita, che vogliamo fare? Beh, comunque, Giorgio, l'indipendenza, quella, ma non credo, sai. Beh, allora, scusa, quindi, Massimo. Sia i nati sotto il segno del Toro, chi... ha anche pianeti in segni di terra, con Giove ben aspettato, gli investimenti fortunati saranno all'ordine del giorno, soprattutto fine giugno. Maggiore prudenza la consiglierei da autunno in poi. Prudenza negli investimenti, prudenza nel cambiamento di lavoro, prudenza nell'investire, prudenza in che senso? Prudenza sulla strada, Giorgio. Con quella sempre. Ma... casco ben lasciato in testa e fare i abbaglianti accesi. Ma attenzione, in amore farete fuoco e fiamme in fatto di conquiste e con tanti astri a vostro favore potrete confermare molto bene la fortuna con nelle vostre relazioni, con gli amici e con i vostri amori. I vostri amori? Ha detto un plurale, c'è qualcosa che non va. Gli amori sono tanti in una vita, non è mai solo uno. È vero, è vero, è vero, è vero. Non si può parlare di amore solo in senso così di rapporto di coppia, si deve parlare di amore anche in senso. Mi piacciono i libri, amore per i libri, amore per il lavoro, amore per le auto, non so, magari ti metterai a fare, eccola qua. Il meccanico. La pilotessa. La pilotessa di auto. Bene, arriviamo al segno dei gemelli. Segno d'aria. Di già, no, facciamo una pausa. No, quattro alla volta, vai Massimo, non ti preoccupare. Fortuna, un po' di disordine, ma tanta allegria, caratteristica di questo segno. E così. Vai, che gemelli, tanta allegria. Allegria. Vai, fratello. Anche qui, ragazzi, la passione si scatenerà dalla primavera in poi, quando Giove e Venere sul vostro segno stimoleranno il vostro Eros. Ad uscire quindi allo scoperto sarete voi, e usando conquiste per chi è single e clamorosi rilanci per chi è in coppia. Oh! Lancio 100.000 e vedo. Beh, vogliamo passare al lavoro? L'obiettivo per tutti sarà quello di conquistarvi maggiori spazi di libertà e indipendenza. Nella prima metà dell'anno, con la lunga quadratura di Marte, incontrerete un po' di ostacoli, ma da giugno in poi, come vi ho detto, e l'apporto fortunato di Giove, potrete raggiungere i vostri obiettivi. Ah, bene, quindi raccontami. Allora aspetta, quindi allora soldi, come si è messi soldi lì? Al toro, abbiamo detto, come di tutti gli altri, quindi c'è speranza. Quindi per i gemelli, no, siccome ho qualche conoscenza gemelli, che cosa gli possiamo dire in soldoni? No, lui può anche dire delle cose, di cambiare segno, lo so che c'ha le dita. Sì, vabbè, però le manteniamo sulla media, no? Allora, i nati della prima decade con Urano a favore sapranno cogliere al volo tutte le opportunità e superare eventuali incertezze. Favoriti sicuramente i lavori di equipe, l'insegnamento e le attività nell'ambito dello spettacolo. I mesi più creativi per artisti e poeti e navigatori sono da aprile ad agosto, quando Venere sosterrà nel segno dei gemelli. Quindi il periodo migliore è aprile e agosto. Assolutamente. Mi raccomando, ottimo il denaro da giugno in poi, con la possibilità di piccoli incontri, lasciti o magari eredità. Questo insomma sembra di buon auspicio. Beh, buon auspicio. Eh beh, da un gruppo giovanissimo a Madonna, quindi insomma l'allegria questa sera veramente è la chiave dominante. Sentite, celebration. Sentite ridere in sottofondo il nostro Massimo, che insomma ci sta veramente prospettando buone notizie per ciascun segno. Proseguiamo col segno del Cancro questa volta. Daniele, questo è per Daniele. Non abbassate la guardia. Ecco qua. Anno non facile, in quanto Urano e Plutone sono ostili alla prima decade, però, mentre la terza decade è presa dalla quadratura di Saturno, praticamente per tutto l'autunno prossimo. Dunque, lavoro con Urano e Plutone contrari, voi della prima decade vi sentirete come un'automobile con il freno tirato a mano. Vorrete fare molto, ma non sempre otterrete adeguati risultati. Nettuno, invece, a vostro favore, vi ispira a molte nuove idee. L'ispirazione del poeta, direi, no? Soprattutto se lavorate in ambito creativo. Ma ci vorrà ancora tempo prima di vedere realizzate le vostre aspirazioni. Giove e Marte, fino a giugno, proteggono e sostengono, anche se non è l'anno dei grandi impulsi in avanti. Per finire, l'amore. Ponderate tutto e se credete nella vostra coppia, resistete. Molto meglio la seconda decade, che ha già fatto il lavoro sporco, difficile nel 2011 con Saturno ostile, ma ora in un modo o nell'altro si godrà un anno di relativa tranquillità all'insegna della ricostruzione o magari di nuovo ciclo. Ma però Daniele non ci ha detto se è della prima, della seconda o della terza decade. Io sono della terza. Sei della terza decade? Beh, sì, Quello che ha lavorato l'anno scorso. No, quella era la seconda. No, scusi, io non ho capito. Chi è che ha lavorato l'anno scorso? La seconda o la terza? E la seconda. Ah, la seconda. E la terza è stata in vacanza. La terza è stata in vacanza. Allora, attenzione, salute. Visto che è un po' il metabolismo che tenderà ad impigrirsi, attenzione sempre alla linea e allo stomaco. passiamo. Vabbè, questo lo sappiamo, è tipico di segno del cancro. Vabbè. Passiamo al leone, è il tempo della riscossa, ragazzi. Amore, vi attende un periodo brillante, prorompente, anche se pieno di luci e ombre, con le gelosie indotte da un Giove dissonante fino a giugno. Per le coppie consolidate sarà necessaria una revisione totale, in alternativa a scelte e chiusure drastiche. Nettuno finalmente smette di tormentarvi con i suoi dubbi, le sue incertezze, lasciandovi finalmente compiere delle scelte lucide e nette, dentro o fuori, ragazzi. E per il lavoro che dice? Con Saturno in sestile sarete in grado di compiere serene e lucide valutazioni della vostra situazione e quindi di elaborare scelte e strategie d'azioni giuste. Urano vi spinge ad entrare in una fase nuova e propositiva e Saturno vi consente di fare progetti concreti a lunga scadenza. Prima metà dell'anno ancora un po' frenata dal quadratura con questa quadratura così così di Giove, mentre da giugno in poi niente vi potrà fermare. Tutti avranno dei cambiamenti, piccoli o grandi, e alcuni potranno persino scegliere un lavoro lontano dall'habitat solito. Insomma, una rivoluzione per tutti. Salute e bellezza, state attenti, però diciamo che con l'estate siete assolutamente in forma, questo bel aspetto di Giove e Venere. Fino a giugno, con Giove contrario, non eccedete troppo ovviamente coi grassi. Eh beh, questo mi sembra giusto. Eh beh, anche perché insomma dopo, cioè dopo non si può esagerare perché c'è l'estate, eccetera, quindi quest'anno ragazzi non si magna. Vergine! Combattivi da stupire voi stessi oltre che gli altri. Oppla. Amore. Chi è della Vergine? Mia sorella. Vergine. Abbiamo. È molto bene. Con Marte nel vostro segno, ragazzi, fino a giugno non vi riconoscerete più. La vostra proverbiale prudenza e l'amore verrà spazzata via e sostituita con insolite trasgressioni e passionalità prorompente. Insieme alla passione compariranno altri sentimenti per voi insoliti, quali la gelosia e la voglia di conquistare e sedurre, ragazzi. Bene. Per tutti, sia per chi è in coppia, che potrà partire alla riscoperta sentimentale ed erotica del partner, sia per i single, che potranno per una volta tanto lanciarsi in avventure, invece di aspettare passivamente di essere scelti. Bene, mi sembra essere un buon auspicio. Io chiamerei la mamma e il papà. Bella sorella, dicendo, state attenti perché qua è, insomma, è l'anno buono. È pure l'anno della maggiore età, quindi è l'anno tutto. Della maggiore età, allora è l'anno buono proprio. Lavoro. Mamma mia, mamma mia. Allora, vediamo il lavoro. Con Giove in casa nona e Saturno in casa seconda, è venuto il tempo di allontanarvi dalla famiglia, ragazzi, di spingervi in progetti concreti. Andiamo bene. Magari attraverso un viaggio importante o comunque uscendo dai vostri soliti abitudinari schemi. Dunque, un anno straordinario. Marte in congiunzione per 8 mesi vi renderà più vitali e decisi che mai. Grinta, ambizione e consapevolezza delle vostre capacità vi apriranno molte porte, strade per un futuro migliore. I progetti diventeranno più concreti e fattibili a partire dall'autunno 2012 con Saturno in sestile. Qualche problemino economico forse il vostro partner, ma vi ritroverete forse ad aiutarlo. Ecco, ecco, poveracci che aiutano i partner. Chi sono questi ancora? Bene. Leggiami, no, le vergini, le vergini, ancora loro, no, le vergini se ne vanno da casa. Io, oltre a tutto il resto, se ne vanno pure da casa. Quindi, io veramente una telefonatina la farei dicendo: signore, quest'anno occhio e orecchie aperte perché qua. Beh, la mia è già fuori casa perché studia e fuori sede, quindi già da un po'. Comunque, vabbè, fuori sede, porterò tanto fuori sede. No, no, no, controllabile. Che è quest'anno l'anno maturità? No, l'anno prossimo. L'anno prossimo l'anno maturità. È secondo liceo ancora, secondo liceo classico, quindi. Secondo liceo classico, che però è la quarta, non esatto. Hai capito perché non hanno mai cambiato. Cioè, eh beh, sono classici. Conservatore. Che classe fai? Faccio la quinta, ammazza che giovane. No, cioè faccio la quinta, ma faccio la seconda. No, è la terza, no? Ah, quindi la seconda. No, guardi, scusi, è che volevo. Insomma, ho avuto difficoltà a spiegare cosa stavo facendo. Sempre. E vabbè, Andiamo avanti col prossimo segno. Bilancia, siamo arrivati alla metà. Mia madre, bilancia, quindi vi ascolto con interesse. Vecchi cicli si chiudono, nuovi orizzonti si prospettano. Amore, viverete il conflitto tra il self-control saturnino e la sensualità indotta da Giove in campo ottava, nella casa dell'Eros. Potreste risolvere il tutto vivendo la trasgressività in ambito di coppia, ma potreste anche dedicarvi al flirt, a sperimentalismi estremi. I più concreti saranno i nati della terza decade con Saturno congiunto, i più trasgressivi quelli della seconda decade con il trigono di Giove. Attenzione, aspettate, fatemi finire con la seconda decade, che saranno i più fortunati con il trigono di Giove da giugno in poi, e vi indurrà questo ad abbandonarvi con fiducia a tutto ciò che il fatto vorrà, che il fatto vorrà offrirvi. Per i dati della prima decade con Saturno opposto soffriranno un po' di più per questo conflitto, in certi casi si sentiranno costretti a fare delle scelte drastiche e difficili. Lavoro, buttare all'aria un bel po' di cose, avventurarvi nel mondo. Questo è il diktat del nuovo anno, dovete entrare in una fase nuova, interpretare nuovi ruoli, in certi casi abbandonare progetti obsoleti, molte favorite le attività in equipe. I più conservatori, quindi sempre terza decade, saranno i nativi con questo Saturno congiunto e potranno consolidare e ripartire seppur con fatica. Favorite tutte le attività imprenditoriali e quelle collegate alla legge, all'ortopedia e all'odontoiatria, quindi alle specializzazioni mediche. Ma l'ortopedia che cos'è? Coltivare l'orto in maniera del tutto rivoluzionaria e moderna. No, ma è sempre assolutamente dei bambini, cioè dosi di bambini che lavorano nell'orto. È l'attività per te, perché è fare l'orto con Wikipedia. Fare l'orto con Wikipedia. Wikipedia botanico. Aprirò l'ortopedia, Wikipedia botanico. Giacché Dani è intervenuto, direi che magari dopo questa sua battuta possiamo anche ascoltare un brano musicale. Ma non lo so, è un po' lento, vediamo se è pronto. Ed eccoci nuovamente qui, Radio Alma, brussellando Mari D e i microfoni, veramente questa sera in ottima compagnia. E ricordo a quanti fossero in ascolto solo da qualche minuto che ci stiamo dilettando ad ascoltare quelle che sono le predizioni, se così le possiamo chiamare, del 2012. Prossimo segno, Massimo? Scorpione. Irrequieti, andrete alla ricerca di qualcosa di nuovo. Amore, con Giove opposto fino a giugno nella vostra settima casa, sarete costretti a mettere in discussione il rapporto a due, se non addirittura il concetto di coppia. Ma con Marte a favore oserete di più, vi sentirete più carichi di erotismo e forza, ma sarete anche molto più gelosi del solito, creando non pochi problemi al partner. Alcuni di voi potrebbero lanciarsi forse in qualche stuzzicante fuori programma, altri invece potrebbero fare un incontro davvero importante. Insomma, un anno di luci e ombre, almeno fino a giugno però, ragazzi. E poi che succede? Lavoro. Per dare il meglio di voi avete bisogno di scariche di adrenalina. La tranquillità con voi non funziona e non produce nulla. Nel 2012 con Giove opposto fino a giugno vi sentirete insoddisfatti, annoiati, assetati di novità. Così vagherete alla ricerca di qualcosa di meglio e dopo l'estate la troverete. Ragazzi, quindi fino ad allora accontentatevi di elaborare strategie a lunga scadenza e pazientate, non prendete decisioni instabili di cui voi poi magari vi pentirete. Quindi perlomeno aspettate di avere qualcosa in mano. Ok? Possibili lotte legali per entrare in possesso di denaro che vi aspetta. Non eccedete nelle spese. questo è un consiglio, però un consiglio esteso a tutti i 12 segni. Beh, vista insomma, la crisi. Vista la crisi, tra l'altro. Proseguiamo. Sagittario, ragazzi, vento di grandi novità. Lì c'è scritto obitorio, cioè. C'è scritto obitorio, non Sagittario. È scritto obitorio, te lo faccio vedere, guarda. Guarda cosa c'è scritto. C'è scritto obitorio e lui legge Sagittario. Ma questa è la mia scrittura, ragazzi. C'è il suo linguaggio in codice. Urano in casa, amore. Urano in casa quinta, intrigono vi renderà trasgressivi e rivoluzionari, al punto che potrete vivere la vostra vita sessuale e sentimentale con disinvoltura e piacere. Alcuni di voi vivranno un colpo di fulmine epocale, altri troncheranno senza tanti rimpianti un rapporto sbagliato, altri ancora chiederanno al proprio partner di cambiare radicalmente i vecchi schemi. Dopo giugno, con Venere e Giove opposti, non si escludono momenti di trasgressioni, piccole follie e momenti di dubbio o gelosie. Fino a giugno, invece, con Marte in quadratura, può provocare momenti di nervosismo e stress dovuti a chiarimenti non sempre semplici. Entrate in aumento. Buone opportunità di investimento all'estero, ragazzi del Sagittario. Che vuol dire? Questo, Monti non sarà felice di questo acquario. Marte, questo... con, per quanto riguarda il lavoro, con Marte in quadratura fino a giugno e poi Giove opposto, mostreranno i limiti della vostra posizione. È vero che siete degli inguaribili ottimisti e tendete ad accontentarvi, ma nel 2012 Urano in Trigono vi spingerà a dire basta a ciò che non funziona e a muovervi alla ricerca di qualcosa di nuovo. La realtà attorno a voi comincerà a muoversi velocemente, offrendovi l'opportunità e anche l'occasione di cogliere qualcosa al volo. Fra ostacoli, stress e nervosismo potrete davvero ottenere di più, ragazzi del Sagittario. E ragazze anche dei Sagittari, infatti mi mangiate. Beh, la regola italiana la sai pure tu, quella della grammatica italiana. Purtroppo è una grammatica maschilista. È una grammatica? Maschilista. No, non è vero. Seppure se c'è soltanto un uomo in un gruppo non devi dire ragazze ma ragazzi. E il motivo? Il motivo è la grammatica italiana. L'ho inventata io. Comunque passiamo. Chi l'ha inventata la grammatica italiana? Una di quelle accademie di tanto tempo fa che non aveva nulla da fare se non pensare alle regole grammaticali. Mia, che bestialità stiamo sentendo questa sera. Torniamo ai segni, vai Massimo. Capricorno, ogni cosa al suo posto. Bingo! Lavoro, con Urano e Saturno in quadratura qualcosa dei vecchi schemi si spezzerà, i pezzi del puzzle in molti casi si romperanno e sarà inutile incastrarli di nuovo. Giove in Trigono fino a giugno vi spinge a cercare nuove occasioni che dovrebbero arrivare assolutamente e in tal caso andranno colte al volo. Usate la vostra tenacia in modo produttivo e in autunno raccogliete i frutti di una nuova progettazione. Guadagni più stabili tutto l'anno, meno spese e più risparmio. La ricetta di Monti. ancora, manca la salute. Amore e salute. Amore, con Plutone, Marte, Giove, tutti i Capricorni saranno favoriti. Scoprirete il piacere di lasciarvi andare ad emozioni e sentimenti. Tenderanno questi a essere più intensi. Giove vi vuole più morbidi, positivi, generosi e appassionati, così che molti di voi si lanceranno in nuove storie. Per quanto riguarda la salute, Saturno ancora un po' contrario, vi taglierà diciamo un po' le vostre usuali energie. Attenzione a non disperdere diciamo la vostra forza fisica. Questo mi sembra essere ancora una volta un suggerimento da estendere a tutti. Ebbene sì, eccoci qua. Mancano gli ultimi due segni, quelli più importanti, oserei dire. Quindi adesso gli ultimi saranno i primi. Adesso cominci, parli con calma, perché devo scrivere. Quindi lentamente, come se dovessi dettare, perché devo scrivere. Parliamo dell'acquario, che è anche il segno del nostro Giorgetto. Acquario, che vi ricordo è un segno d'aria e non un segno d'acqua, perché l'uomo che getta l'acqua è il simbolo della conoscenza, l'uomo che getta l'acqua della conoscenza. Beh, il nostro Giorgetto, il nostro Bruce Orlandopedia, ragazzi, questa è una conferma straordinaria, non ci siamo messi d'accordo prima. Lo sapevo che era un segno d'aria, lo sapevo. Arias, un segno Arias, come dica la Bologna, è un segno Arias, Arias. I vostri desideri si avverano finalmente. In amore, il problema è capire quali sono i desideri. Io non è tanto avverare, quali c'hai? Che ne so io? Dai, che qualcosa sta volendo. Vediamo di suggerirti qualcosa, di stimolarti. L'amore, di solito la trasgressione è la vostra bandiera, ma quest'anno, con Giove in quadratura fino a giugno, verrà alla luce un insospettato tradizionalismo e soprattutto un'altrettanto insolita gelosia. Che abbiate voglia di mettere la testa a posto? Nego fermamente. Questo è solo è fantasia, non c'è niente di reale. Sì, vabbè, fallo parlare per piacere. I rapporti troppo vincolanti vi stanno stretti, in fin dei conti. E agognate sempre a libertà. Ma c'è aria nuova per voi. Da giugno in poi, con Giove e Venere a favore, alcuni troveranno la persona giusta. Anzi, il grande amore. Ma altri in situazioni di coppia consolideranno il rapporto e magari qualcuno convolerà a nozze. Oh, ragazzi, fatecelo sapere prima, perché quest'anno per me è già un anno di matrimoni. Ho capito, quindi... è un problema. No, non mi sposo io, due cugini dai, si sposano. Dai, ragazzi, che così facciamo, apriamo un prestito in banca. Lavoro, vediamo l'acquario. Grazie ad Urano in casa terza vi si prospetta un anno ricco di idee, contatti, network, nuove possibilità di realizzazione. Il tutto però dopo giugno. Prima con Giove in quadratura avete più che altro voglia di cambiare, ma non ci saranno le occasioni giuste. Invece da giugno in poi, con Giove a favore, tutto filerà liscio, nuove prospettive vi si apriranno davanti ai vostri occhi, aumenti di stipendio, nuovi incarichi, nuovi contatti, quelli giusti questa volta. Oh, speriamo, George. Incrociamo le dita. Saturno in trigono vi darà anche la possibilità di impostare progetti a lunga scadenza. Siate cauti però anche nelle spese fino a giugno, come al solito, ma le cose dovrebbero andare meglio e riuscirete anche ad entrare in possesso di vecchi crediti. E la peppina! E questa è una notizia bomba. Salute. Cioè, tu dici veramente che entrerò in possesso di vecchi crediti? Mi potrebbe cambiare la vita. Guarda, se lo fai adesso e quest'anno, dopo giugno, non lo fai più. Allora adesso. Quindi spicciati. Mi spiccio. Beh, vediamo un po'... la salute. E sto invecchiando, quindi un po' tremano le gambe, lo stomaco, diventerò vecchio di più, lo stomaco. Però almeno non sei calvo, Giorgio. Non sono calvo, non sono la calvo. Regia ringrazia. Mi verranno i capelli grigi, mi verranno male le gambe. Ragazzi, finalmente non somatizzate più ansie e paure, cominciate a sgonfiarvi. Azzerola, che bello. Giorgetto, sei in radio, Giorgetto. Beh, arriviamo. Abbiamo finito con la fase. Allora, piano. Com'è? Finita così. Cioè, mi chiede da sgonfiare. 3 minuti. No, deve leggere tutto. Ho già detto tutto. Giove vi aiuterà a ritornare in piena forma. Saremo. Già, scolerai più in bici quest'anno, dai. Ammazza, è diventato un fustone. Vabbè, un po' piccolo infustino, dai. Ora silenzio, vi prego. Perché abbiamo il segno più importante dello zodiaco. Silenzio, vero? Silenzio. Certo, il segno che chiude. Gli ultimi. Pesci è un segno doppio e di acqua. Con Nettuno a fianco sarete creativi e magici. Oh, già lo sono, quindi. Magica Roma, che magica? Magica Mario! Calma, Magica Mario! Magica che fa trallazzi. Beh, allora, amore, fino a giugno con Marte contrario avrete troppi pensieri per occuparvi le faccende di cuore. I veri picchi di passionalità ci saranno da settembre in poi. Fino a giugno si prevedono rotture, rappacificazioni appassionate e situazioni faticose da gestire. Se ci tenete al vostro rapporto, imparate a tacere e a tollerare, poiché se farete gli intransigenti, se farete gli intransigenti, ormai anch'io sono arrivato, rischiate di buttare tutto all'aria. Tutto a mare. Segno di pesci e segno d'acqua, tutto a mare. Dipende, sì, se sono sempre sulla barca, sì. Tutto si normalizzerà da agosto in poi. Le decisioni che prenderete saranno ponderate e vi apriranno in un modo o nell'altro nuovi orizzonti affettivi. Lavoro. Con l'ingresso di Nettuno nel vostro segno, molti di voi si ritroveranno a chiedersi chi sono io e soprattutto cosa voglio fare da grande. In poche parole, sarete pronti a ricominciare davvero da capo. Tuttavia, fino a giugno con Marte opposto, state attenti e non abbassate la guardia, perché sgambetti e tiri mancini saranno possibili proprio da parte di coloro che, vedendovi così presi da voi stessi, cercheranno di soffiarvi occasioni e vantaggi. Vabbè, ci sono abituata, già è capitato, quindi... Nettuno è così, vi abbaglia con l'illusione lontane, facendovi perdere le opportunità del presente. In autunno però, con l'aiuto di un credo di Saturno, sarete in grado di prendere in esame progetti concreti e buone occasioni. Salute, Marte opposto fino a giugno tenderà a sfibrarvi un po' e a stressarvi, attenzione amici dei pesci, con tecniche meditative di rilassamento cercate di mantenere la calma. Consigliato lo yoga o sport non violenti. Tipo pugilato. No, beh, se vi dico tutte le attività sportive di cui sono ultimamente promotrice, Massimo. Ma, cioè, la tua attività sportiva preferita che va eliminata? No. Quello è uno degli sport più violenti che si conosce. No, chi il calcio è uno degli sport più violenti. Sì, io le prendo, però non le do. E il calcio è uno sport violento. Perché le prendo? Calcio, se ascoltate la regia, abbiamo un brano musicale che dedichiamo a tutti i segni, ma soprattutto a quello dei pesci. Magica bula, bibidi bula, bibidi bodi bibu. Adesso ci parli di quel che vuoi tu, bibidi bibodi bibu. Librangolo. Era in onore della Magica Mary. Grazie, sono commossa e anzi onorata. Cominciamo l'anno ovviamente con della fantascienza, perché dobbiamo vedere il futuro. Quindi Isaac Asimov. No. C'è qualcun altro che ha fatto fantascienza. Immagina che succede. Cioè, magari mi devo impegnare di più nell'area delle fantascienze, perché altrimenti qua la gente pensa che Asimov sia l'unica persona sulla scena fantascientifica. No, si tratta di Neal Stephenson. Aha. E se poi avremo del tempo vi racconterò anche di dove ho saputo di questo libro in particolare. Purtroppo non ho avuto il tempo di verificare il titolo italiano, comunque titolo inglese Diamond Age, quindi io inferisco che probabilmente sarà qualcosa come l'era del diamante o... Beh, intanto l'era di Monti però. E vabbè, come vuoi tu, anche se non vedo questa esplosione delle nanotecnologie che Mario invece Monti. Si vede in questo libro, che è molto interessante da questo punto di vista. Cioè una... un po' un'elaborazione su che cosa potrebbe succedere se veramente noi potessimo utilizzare al massimo le nanotecnologie, i materiali intelligenti, i materiali che si generano, cioè praticamente tu programmi e dalla cosa esce quello che volevi fondamentalmente, e anzi questo apre la possibilità anche di creare delle cose che sono un po' fuori dall'ordinario, per esempio un'isola da niente in cui cioè con dei mostri, cioè per esempio un'isola giocattolo, se possiamo dirlo così. Quindi in questo mondo un po' strano, dominato dalla nanotecnologia, c'è uno dei leader dei gruppi sociali che esistono, che sono immaginati da Neal Stephenson, che si sta chiedendo un po' di questioni filosofiche sull'educazione, cioè si sta chiedendo che nella sua società, che cioè, ci sono vari gruppi, alcuni un po' più intransigenti, un po' più pazzerelli, alcuni invece molto regolati, cioè questo tizio è un neovittoriano ulla. E quindi si sta chiedendo, sì, ma cioè noi abbiamo tutti questi giovani che sono molto, cioè, padroni di sé, molto bravi, di una morale proprio salda, però non abbiamo i rivoluzionari, mentre la creatività scaturisce dalle rivoluzioni in genere. E qui ci va la citazione di Mary Lee. Ne abbiamo parlato tante volte, di Cosmos e di... Sì, ho capito, però sono distratta. Scusa, mi sto pensando al mio oroscopo. Allora, lasciamo perdere Mary Dee. Cioè, è introspettiva. Cioè, Massimo l'ha detto che è introspettiva. Sì, allora, scusate. No, è dal caos che nasce tutto. È dal caos che nasce tutto, certo. Parliamo di esso io, dove parliamo della cosmo. Agonia. Andiamo avanti. Cosmo-agonia. Quello che vorrebbe di comunque educare uno dei suoi nipoti in modo un po' diverso rispetto al resto, però l'unico modo in cui uscire da questo sistema è di creare un oggetto, di creare un libro che sarebbe il libro il libro di lettura di una giovane signora che è basata sulla nanotecnologia e praticamente si adatta alle situazioni che il bambino vive e li presenta una storia in modo sintetico all'inizio e poi va sempre più in dettaglio mettendolo di fronte anche di prove, di cose da imparare, eccetera, eccetera. Una copia non legale di questo libro finisce nelle mani di una ragazza di umili origini che E allora vediamo un po' che la situazione un po' scappa da sotto il controllo di questo nostro personaggio filosofico, perché i libri dopo nel libro si moltiplicano, cioè appaiono qua, appaiono là, copie qua, copie là, quindi però quello che comunque esce dal libro è che non basta semplicemente, diciamo, un'educazione volta alla ad affrontare i pericoli, perché fondamentalmente quello che fa questo libro è di creare una prontezza, di creare una prontezza di reagire a situazioni, di creare anche una prontezza di affrontare delle situazioni complicate senza creando questa confidenza di poterlo risolvere, diciamo. E è molto interessante questo concetto comunque e alla fine quello che differenzia uno dei personaggi che esce, se possiamo dirlo, vincente da questa storia dagli altri è il fatto che attraverso il suo libro c'è un contatto stabile con una persona che non ha visto mai, che è la voce narrante, che sono degli attori, la voce narrante. E il suo voce narrante è una persona stabile. E siccome è una persona stabile che al filo degli anni si affeziona alla ragazza, quello fa una differenza immensa, perché anche senza saperlo, lei in un certo senso si sente amata da qualcuno, non soltanto seguita, educata, eccetera, eccetera, non è solitaria, ma è proprio seguita con affetto. E diciamo, con questo vi ho un po'... diciamo rovinato un paio delle sorprese del libro, anche se ho cercato di rovinarvi il meno possibile le sorprese, perché comunque di svolti, risvolti ce ne sono abbastanza in questo libro. Io mi sono concentrata un po' sul filone filosofico che sottostà la storia fantascientifica, comunque proprio anche per questo filone filosofico io l'ho trovato un libro interessante, non soltanto come un frutto di immaginazione di un futuro, di una tecnologia di cui inizi vediamo in questi giorni, ma anche come una riflessione di come le persone crescono, cambiano o sviluppano certe attitudini in una società. E quindi vi raccomando questo libro. E ho il tempo di raccontarvi come ci sono arrivata? Sì. Ho il tempo? Arrivaci, raccontaci. Allora, ci sono arrivata perché se avrò il tempo, lo metterò anche sul blog, ho trovato una bellissima mappa. Una bellissima, è tipo una flowchart in cui si chiedono un po' le preferenze della persona che vuole leggere il libro fantascientifico, perché si concentra proprio sulla fantascienza, e poi con delle freccette uno arriva a qualche parte. Per esempio, vi piacciono le riflessioni sulla società? Sì, vabbè, le piacciono grandi o piccoli, violenti o no? Cioè, con queste freccette, che sono molto spesso anche buffe, si arriva a scegliere, diciamo, un libro, ed è così che ho scelto di leggere questo libro. Quindi vi raccomando anche la mappa, perché è molto interessante. Ma la mappa è inclusa al libro? Mamma mia, Mary D, la mappa è un tool, uno strumento. Giorgetto, non ho bisogno che tu mi dica che cos'è la mappa, ho bisogno di una risposta alla mia domanda. Ma non è una mappa legata al libro? La mappa è inclusa al libro? No, bene, grazie, proseguiamo. Questa mappa è a disposizione di tutti ed è indipendente dal libro, è per tutti i libri catalogati da questa mappa. Oh mio Dio, sì. L'ha pensata sta mappa? Rilassati. Era un blogger, come sempre, molte cose molto interessanti vengono da blogger. E questo è stato un blogger che l'ha concepito e di nuovo, se mi ricordo, se avrò il tempo, con molto piacere ve lo metterò a disposizione sul blog di Brussellando, radioalma.eu/brussellando. Sì, questo è il nuovo sito, vi ricordo, abbiamo un nuovo blog. Anzi, ringrazio già coloro i quali ci hanno complimentato per la nuova veste, non solo grafica ma anche di contenuti. Insomma, abbiamo cercato un po' di migliorarne veramente anche alcune funzionalità o tools, parola che piace tanto a George. L'ho imparata ieri, così vuoi subito adesso praticarla, sì, come i bambini, così la metti un po' dappertutto. Esatto. Beh, ecco, vedi, Dani M, ci ricordi nuovamente il link? Sì, a radioalma.eu/brussellando, mi raccomando, il vecchio blog non è più attivo. Bene, e prima di salutare, non è più rimanda, rimanda. Sì, nel senso, i post non vengono più postati nel vecchio, unicamente nel nuovo c'è un link che ci porta. Se andate in quello vecchio trovate un link dicendo ecco, da qua in poi andate dall'altra parte. Allora, noi siamo quasi al termine, il tempo, ahimè, tiranno, e se non inizia volando senza questa mia frase, non ero assolutamente felice, quindi sì. Lascio, lascio anche lo spazio alla tua. mi ha zittito. Tempus alla latina, Tempus Tyrannosaurus Rex. Volevo segnalarvi tre eventi in chiusura perché reputo che siano tutti e tre molto interessanti. Umberto Tozzi in concerto in Belgio 26, 27 e 28 gennaio. A Bruxelles il 26 gennaio al Centro Culturale d'Auderghem, a Boulevard du Souverain 1160 a Bruxelles. Il 27 venerdì a Liegi, Teatro Trocadero, e il 28 a Binche, famosa per il suo carnevale, ma non è ancora carnevale. Per quanti volessero saperne di più, ticketnet.be, insomma, poi ricercate Tozzi e ritroverete le date. George, dillo, dai. Come si chiama il personaggio di Binche? Non lo so, voglio sapere, voglio che tu dia un'indicazione su chi è Umberto Tozzi. Ti amo. Ah, ecco. Ti chiedo per dove. Sei felice? Sì, oh, che bello. Che bello. Poi invece, dove comincia il Sole Tour, quindi immagino abbiate già capito, i Pooh in concerto in Belgio, il 19 e il 20, il 19 a Coulfontaine e il 20 a Liegi. Ricordo anche che mercoledì 18 gennaio alle ore 17 presso la sala L'Artista Rue Bolling 252 ad Anderlecht ci sarà una conferenza stampa proprio di questo intramontabile gruppo di artisti italiani. Sì. E per quanti volessero, io se fossi lì gli chiederei come mai vi chiamate da Winnie the Pooh. Da Winnie the Pooh. Sì, sì, da Winnie the Pooh. Confermi, io pensavo fosse un... vabbè, no, ne no, parleremo. No, è proprio da lui, da Winnie ne riparleremo. Sabato 21 gennaio invece a Parigi presso l'Olimpio e prevendite olimpiahall.com. Infine vi ricordo, domenica 22 gennaio alle ore 15.30 ad Anversa, ospiti del comitato Dante Alighieri, Teatro Cabaret, Eva e le altre, regia di Vito Lara Spata e Ortensia Semoli. Per quanti volessero averne in più informazioni, danteantwerpen@hotmail.com oppure chiamate allo 03 218 69 48. Il tempo, ahimè, veramente ormai è sgocciolato verso la fine. Io ringrazio Massimo. Grazie a voi per essere stato qui con noi. E spero, insomma, che per il segno dei pesci sia tutto vero. Prometto che farò la brava. Comunque, yoga grazie, già lo sto grazie. Facendo, quindi sono sulla strada buona. Ringrazio Fiordaliso per tutti i suoi suggerimenti, anche insomma per questo 2012. E per la mappa. Per la mappa soprattutto, che non troverò nel libro, ma me la troverò, comunque anche senza l'aiuto di George. Ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi. Ringrazio anche Giorgetto, nonostante mi faccia arrabbiare molto spesso. Eh beh, è normale, perché tu ti arrabbi, ma come si dice in analisi transazionale, che è stata richiamata Giorgetto, anche nel libro. Siamo di... Giorgetto. Beh, è una cosa che devo dire, perché... Hai 5 secondi. L'analisi transazionale ci sta anche nel libro. Insomma, c'è un libro famosissimo, si chiama Io sono ok, tu sei ok. Ma come si dice in quel libro? Bisogna cominciare a vivere nell'insicurezza. E il fatto che tu ti arrabbi, non sono io che ti faccio arrabbiare, sei tu che ti arrabbi. Va bene, ok, è un problema mio. Siccome è un problema mio, c'è scritto allora... nel libro. C'è scritto nel libro. Bene, allora io vi ringrazio, Maria dei microfoni, e vi auguro un'ottima settimana. Ancora rinnovati auguri di buon anno. Volevo salutare anche il piccolo Leonardo. Salutiamo il piccolo Leonardo che è nato nel 2011. Però insomma, veramente gli auguriamo ogni bene. Grazie. Grande Leonardo, vai. Buona settimana a tutti, arrivederci. Ciao.